Ma non lo posso immaginare già, è così, cavolo. E quelle ravioli sono molto delicate, sono. E basta che una cosa un pochettino diversa, due, perderà, cioè, fa un'altra tonalità. Sono radio particolari, sono fatte in quella maniera. Se tu me lo poni in normale, normale cambia tutto ancora. Se tu con lo stesso microfono lo pigli senza essere BSX, lo metti nell'ala 48 normale, normalissimo, ha ancora una tonalità diversa, fa come un nuovo ucciso. Oramai l'ho già capito io. Ma il fatto si è che nelle altre ho avuto il CTE andava benissimo, non ho messo altri microfoni perché il CTE andava bene e la voce la faceva buona, limpida, cosa, non ti dico grossa, però almeno limpida, tranquilla. Scappa. E te lo sto dicendo, ne metti un'altra ancora, cambia ancora, cambia totalmente. Ma molte volte c'è differenza, ma di un meme, no, non di poco, no. Non so, non so che dirti. Comunque, questa qua ci va benissimo, va molto bene. Ti aggiungo io, tu puoi allungarsi a si può fare questa cosa. Ma è una fiovia come te. E sono così, sono. E quella là va bene per quella là, magari c'è un po' più di tonalità basse. Li dà, li fa dare a quel tipo di radio, perché io l'ho già sentita, no? Li fa dare un altro tipo di modulazione, fare l'uscita, ma sono fatte così con le radio, sono un bel strano. Vabbè, interessante se si è riuscito a risolvere qualche cosa. Quella adesso io te ne dico una, te ne dico. Se tu chissà la figlia, ma porti a 3 watt, te le pone con la radio che hai, e le metti, già lo sai, quella dei 2000, esci ancora più forte, esci di modulazione, perché io te lo faccio vedere, quindi adesso sto scendendo giù, io ti metto quella radio che ho, con watt, allora la modulazione potente che esce, perché è così, e ora andiamo sempre a 3 watt, perché sono fatte così con la radio, cioè, noi lo andiamo sempre a 3 watt e poi ti arruzzai. E sono così con la radio, non c'è nulla da fare. Sono, cioè, anche quello lì ti cambia la tonalità, tu pigli a voce le basse. Adesso con la radio paurosa esci. Comunque, no, adesso va bene così, lasciamo così con una puntina di toccare la radio. Quella lì sarà 9 volt, 9 watt, non lo so. Ma già va bene, interessante che si senta bene, pure. È una diversa radio da quella di tuo padre, non è una da 48, quella di tuo padre c'è già una radio superiore. Anche io se faccio il magno esce forte. Scappa, ma quel sistema lì, come le fa lui? Così, te lo sto dicendo. E c'è ancora più forti che c'è da passo in fatto. Chiara gara, avanti Luca. Oh Luca, sei bello. Scappa. Allora, ma aspetti già che sto scendendo giù. No? E vai. Scappa, dai, ce ne riprendo dalla fregassi. Scappa. Attenzione, Pirino Paolino. Antonietta, ci sei? Hola. Ehi, Antonietta. Cara Roger, eccomi qua. Guarda già. Montato la radio, Gianni. Adesso ha diminuito. Ma è diminuito. benissimo. Come poi tu hai toccato il vento, aumentato e invece ha diminuito. Però cosa succede? Ma tu l'hai abbassata, non l'hai alzata. Yeah. Comunque, io ne ho parecchie capsule, solo che sono tutte piccole, di quelle grandi non ne ho. Di quelle grandi che stanno bene in quella... in quel consolito. Se ho qualcuna che va bene di altri microfoni, ma questa qua mi hanno detto che va abbastanza bene. Sembra che abbia il microfono amplificato. Forse anche di più, ma... non lo so. Perché quella che c'è in macchina non va bene? No, ma adesso sì che va bene. E poi la volevo far sentire anche la palla, per cosa mi dice? Perché mi hanno detto che non esce il giro stamattina, Non esce bene. Dice, sapete, ma detto che non si tira il bip. Vuol dire che non è attivato. Il mio primo io cercato il racco. Però io dal palascolta lo sentivo. Non so, no. E il mio fatto fa... Buonasera a tutta la ruota. Ciao Gigino, buonasera. Ma il tasto sulla cisterna è grande quanto? Grande quanto quella del CTE, uguale identica, identica a quella del CTE. Perché è una cosa un po' strana lui. Stamattina, vabbè, io con l'apparecchio dico me l'ho preso, l'ho fermato perché poi è successo quel incidente e non l'ho più usato. Ma i primi giorni che la stavo l'ho usato solo 5 minuti per vedere come usciva, mi ha detto che usciva, vabbè, adesso l'ho riattaccato, dice, no già, la radio dice te l'ha fatto tipo citofoni, capito? Tipo come se fossi imparato un citofo. E nasina, citofoni, allora ho preso proprio una capsula del gas, no, e ho provato quella lì. Adesso con la gara si fa la grande, solo che quella che andava male in macchina, l'ho messa nel Galaxy, nel microfono del Galaxy va benissimo. Si sente tipo amplificata, proprio forte, bella chiara e tutto, ma io non capisco perché. E cosa stavo dicendo? Comunque lui stavo saluti a Pinocchietto del Moro e ieri sera è passato in zona e stavo andando verso la Maddalena che c'aveva il camion in panna. Si offende, se lo sono passato perché avevo questo problema qua.